che adesso, famo il caso, non sia mai, che te trovassi giù fuori delle mura, solo, de notte, in mezzo alla pianura, senza sapere la strada. Dove vai? Cammini e non capischi quel che fai. Cerchi di venire avanti all'avventura, giri alla cieca, drento all'aria scura, te fermi e non capischi dove stai. Ce provi, ce riprovi, e quando vedi che è inutile, che sei sperduto, solo, che non sai quel che c'hai sotto agli piedi, seguiti un altro po', ma poi finisce che ti rinvorti dentro al faraiolo, te metti a sede e aspetti che schiarisce. Aspetti, al fine stracco, insonnolito, te butti giù fra l'erba, passa un'ora, te pare chissà quanto che hai dormito, te svegli, avevi chiuso l'occhio allora, senti abbaiali cani, cambi sito, te riappennichi, dopo un quarto d'ora siamo da capo, tutto indirizzito, te risvegli, apri l'occhio e notte ancora. Cerchi d'alzarti su, dove te tocchi te senti zuppo fracico de brina, te spazientischi, te strofini l'occhio e aspetta, aspetta, al fine ecco che sorge una stricetta de luce fina fina, cuno la guarda e manco se ne accorge, non se ne accorge. E intanto la lucetta si sparge drento all'aria, te cammina, smorza le stelle, striscia sull'erbetta, te scegna dolce dolce alla marina. Poi comincia a sentire la lodoletta. E intanto quella rietta razzentina che te trapassa drento alla giacchetta e te la senti qui, drento alla schiena. Ricomincia a vedere le vie maestre, ricomincia a vedere sulla montagna sbrilluccicali vetri alle finestre. La notte si sprofonda nelle gole, drento li monti. E tutta la campagna se sveglia, se fa d'oro e sorte il sole. Allora t'arsi su da dove stai, te sgrulli, te pulischi, t'arsi in piedi, sparisce il sonno, te rivela fede, vedi dove hai d'annà, t'arsi e ce vai. Che dichi? Che la strada non la sai? Ma caro amico, è giorno, ce se vede. Al primo che uno incontra glielo chiede e quello te l'insegna e ci annerai. E sia che vai vicino o vai lontano, quando che tu mi dichi che c'è il sole, che quello te ce porta per la mano, allora insomma vai, giri, cammini, e senza starci a far tante parole, e il sole per l'Italia, fumazzini. E come venne lui, che se fu messo alla testa, la notte fu finita, e la gente che stava giù addormita, s'alzò, riaperse l'occhi e gli annò presso. E imparò che per far piazza pulita bisognava che ormai fosse successo che uno l'Italia la vedesse unita come noi altri la vedemo adesso. E intanto qua se combatteva in guerra, lì se scriveva, qui se cospirava, lì s'agiva, e ogni giorno che passava se cambiava la faccia della terra. E hai voglia a mette ditti, a cresce triboli, hai voglia a apri galere, arresta gente, hai voglia a pianta forche, arzà patiboli, che quelli dagli sopra e dagli sotto. Venne il giorno che al fine finalmente una mattina te schiò per 48. E fino adesso amici si è parlato di storia e si è discorso di un soggetto che insomma tutto quanto quel che ho detto non l'ho visto, perché io non ci sono stato, ma quel che dico adesso cambia aspetto, perché mica me l'hanno raccontato, mica l'ho inteso di, mica l'ho letto. Nel 48 me ci so trovato. Che giornate, che roba, che momenti. Roma, l'Italia, il mondo si vedeva che traballava sugli fondamenti. E la vita che era morta, rinasceva da capo. E te pareva che rinascesse il mondo un'altra volta. Non solo, ma dovunque le persone che prima si sarebbero sbranate, le rincontravi tutte abbraccicate, tutte quante pensando un'intenzione. E il fumo degli spari del cannone, fra le bandiere e l'arme sfoderate, si mischiava alle gran messe cantate fra l'incensiere delle processioni. E dappertutto, fino ai confini, fin dove lo potevano sentirlo, uomini, donne, vecchi, ragazzini, tutti quanti pensavano un pensiero, tutti quanti strillavano uno strillo. Viva l'Italia e fuori lo straniero. E come che tu vedi tante volte che se dà fuoco dove c'è il grano, che il fuoco cova, cova, e quando sorte fuori ti pare peggio d'un vulcano, così quell'urlo usciva dalle porte, passava le campagne, e a mano che arrivava quell'antri più lontano, quell'altri lo strillavano più forte. E tanta fu la furia, la tempesta di quell'urlo, che a forza di sentirlo, che al Papa pure gli girò la testa. Si trovò messo con le spalle al muro, e un giorno agnede su a Montecavallo, aprì la loggia e lo strillò lui puro. Allora giù da capo precisioni, stendardi, lumi, fiori, trasparenti, musica per le piazze, monumenti di trionfo per tutti i cantoni. e giorno e notte su, dimostrazioni, pannai a dimostrare i sentimenti. E lui sortiva dall'appartamenti, s'affacciava e lì giù benedizioni. Ma nel mentre dovunque uno guardava e vedeva manifesti, armi, bandiere, gente per strada che s'abbraccicava, che pareva che Roma fosse uscita da una carcere a fondo alle galere, eccete che via avanti il gesuita. Defatti il capo della compagnia, che aveva ridunato la congrega, fece: l'affare qui ha preso una piega che il papa, cari amici, è da impazzia. Questo, dice, proclama l'amnistia, benedice l'Italia, fo fallega cor Piemonte, e si dura sta anarchia, sto fregno ci rovina la bottega. E tizio fatto corso era San Pietro e dice: santità, ma siete matto? Ma per l'amor di Dio tornate addietro. Addietro, addietro. E chi lo può presume? Dopo che tu nel meglio che l'hai fatto veni avanti, lo puoi fermarlo un fiume. E il fiume si lo pida lontano, dove nasce, che ancora non si è mosso dagli monti, si tuglie poi da addosso fra gli sassi, lo fermi con una mano. Ma se invece lo lassi scegnar piano, che lui te si incanala drenta un fosso, allora te saluto. A mano che via avanti si gonfia, si fa grosso, si intorbida, si slarga, cresce, cresce, e quando sbatte giù a Ponte Felice, fallo a ritornare su se te riesce. Tu te ci puoi scannare quanto te pare. Quando che sta ripetta lui ti dice: te saluto paranza, io vado a mare. Così, capischi, il popolo rispose. E lui che cominciò a mangiare la foglia, fece fra sé: l'affare qui si imbroglia. Cercò di farsi addietro e s'annescose. Ma al punto come stavano le cose, che dopo aperto non aveva voglia d'entrar drento e restava sulla soglia, il popolo ci agnede e glielo impose. E ceduto che fu, successe uguale come quando che tutti in un momento s'accumulava nel cielo un temporale, che all'improvviso poi te cambia il vento. Così il popolo fece tale e quale. Strillava: morte, abbasso, tradimento! Voleva fare giudizio universale. Ma poi, come conobbe il sentimento del papa che gli ritornava in buono, e il popolo, che insomma è sempre umano, ricominciò a strillare: viva Pio Nono! Ma si può dire che manco ebbe posato il fucile per sbattergli la mano, che il papa era scappato. Ma dove scappi via, sì benedetto? Ma non scappà, via qua, ma dammi udienza, poi dopo scapperai. Ma abbi pazienza, ma che talento c'hai nell'intelletto? Prima ci metti in mano il fuciletto, ci dichi: andate! Andiamo lì a Vicenza, 2 mesi appena dopo la partenza, ci richiami e ci dichi: io non l'ho detto. Ogni tanto ti presenti sulla loggia, benedichi l'Italia, vuoi la guerra, e poi, quando che il popolo t'appoggia, tu gli dai lo statuto e poi lo strappi. Vuoi corre e me te butti giù per terra, e poi nel meglio te travesti e scappi. E poi, dopo che hai fatto sta prodezza, dichi che è stato per le condizioni che il vicario di Cristo ha la certezza che non può fa la guerra alle nazioni. Ma quando chiuso dentro alla fortezza de Gaeta col re degli Borboni, rivi fino alla gran scelleratezza de chiedegli i fucili, armi, cannoni per caricarli e scaricarli in petto a quelli che t'avevano adorato, a quelli che tu avevi benedetto, allora non scappavi e qua rispondi. Allora tutto quanto il vicariato de Gesù Cristo in dove l'annascondi? Dove te l'annascondi? E se sincero, alza la testa e parla su per Cristo. Quello che dico è vero o non è vero? Quello che hai fatto non l'avemo visto. Fincai da fa la guerra allo straniero per paura di fa una ciacca pisto, non la puoi farla manco col pensiero, perché te lo proibisce Gesù Cristo. Ma quando poi, per ritornar dominio, per rivedere l'Italia fatta a spicchi dello straniero e porta allo sterminio, allora perché quello ti rimette sul trono, ammazzi pure, abbruci, impicchi, che allora Gesù Cristo lo permette. Ah, dunque quello, proprio quello è stato il fio dell'Eterno Padre che t'ha detto de fa venire le squadre degli stranieri qui dove sei nato. Ma tutti quelli che hanno massacrato non erano di qui, come tuo padre. Ma per parlà, che lingua hanno parlato? Non parlavano quella di tua madre, che sai, pure le berbe che so berbe, quando qualcantra berba forestiera gli esevo intrufolà drento le serve, come che quella lì glielo dimostra, te sanno trovare il modo e la maniera de dire a ritornate a casa vostra. Invece tu tutto il lavoro era de chiede a tutti i paesi, gli stranieri, e perché fossero scesi qui, te ci chiudi pure in concistoro. Ma poi, te lo vuoi godere sto tesoro? Te piace ad abitare fra i francesi? Te piacciono i mori, i cinesi? Li vuoi far venire qui? Va tu da loro. Ma quello sì, da loro non ci annava. e intanto se strappava i capelli, se buttava in ginocchio, li chiamava e chiama, è storia vecchia. Lì francesi, che poi sono sempre quelli, cominciarono a sbarcare a Civitavecchia, dove, sbarcati appena con l'inganno, messero per programma un manifesto dicendo: noi venimo col pretesto d'aiutarvi, ma non per farvi danno. E mentre se venivano accostando, seguitavano a dice: noi del resto siamo repubblicani, e in quanto a questo, noi siamo come voi, tutti lo sanno. E sperando che Romer, 30 aprile, gli dicesse: ma bravi, vi ringrazio, se presentorno a Roma col fucile, ma dritto in piedi sugli baluardi delle mura di Porta San Pancrazio. Qui a Roma l'aspettava Garibaldi. S'aspettavano, ridendo, de venirci a sottomette, cominciarono a sentire le baionette dei Garibaldi che li puncicavano vortorno strada, e intanto che scappavano, che Garibaldi li tagliava a fette, le cannonate che erano dirette dalle mura di Roma se sprecavano. E quelli, butta via sacchi, fucili, correndo per le vigne a precipizio, sotto le fratte, addosso agli fenili, e intanto con la forza e con l'ingegno, Galletti, Calandrelli e Bizio, dove passava, ce la sta per segno. Per questo bisogna dire che quello l'anima ce l'avesse intraversata. Bizio, sangue di Dio, gli sciabolata che menava per Cristo era un macello. E mentre che fra mezzo a quel fragello veniva giù strillando, dà un'occhiata dentro una vigna e vede che in boscata c'era una compagnia con colonnello. Ferma il cavallo, zompa i cancelli, lui solo gli va addosso a speronate, l'agguanta stretto qui per i capelli, con l'ugne stretto che non pare vero, e in mezzo al fumo delle schioppettate se lo strascina Roma prigioniero. Intanto Garibaldi seguitava a respingere sua la baionetta fuori della porta, su per la bravetta, fino a Castel de Guido, e mentre stava, per dargli se può dire l'ultima stretta, proprio sul punto che li ributtava a mare, vi è decorsa una staffetta con un ordine che lo richiamava. Figurate un po' tu quel che provasse quello, quel che sentisse in mezzo al cuore quello, assentisse di che se fermasse. Eppure nel più bello che inseguiva i francesi, dovunque vincitore, vede l'ordine, insomma, acconsentiva. Quello che ce fruttò d'aver ubbidito, di trattarli con tutti li riguardi, dopo se ne accorgessimo, più tardi, quando che loro ci ebbero tradito. Ma lui che, pur avendo acconsentito, lo sapeva che straccio dei buciardi fossero li francesi, Garibaldi, che l'aveva già subito capito da che parte penneva la bilancia, come intese di scorrere d'armistizio, gli fece dice: «Annata la fan Francia!» Ma a Roma invece avevano pensato che l'accordo poteva essere l'inizio de pace, e l'armistizio fu accordato. Defatti, mentre prima fa il trattato dove si stabilisce, si combina, che i francesi fino alla mattina del 4 non ci avrebbero attaccato, invece, come aveva già pensato, nella notte del 2 ci si avvicina come un ladro, de notte, alla sordina, senza dice che si era avvicinato. E come prima, mentre il commissario ragionava con noi perché cedessimo, ci entrava da nascosto a Monte Mario. Così, prima che quasi i fucili ci svegliassero e che se ne accorgessimo, quello era entrato già a Villa Panfili. E noi come sentissimo il cannone, che era l'allarme dei tradimenti, trombe, tamburri, fra la confusione de staffette, de strilli, de lamenti, se seppe che il nemico era padrone già del casino delle 4:20. Per riportargli via la posizione si cominciarono i combattimenti, e dal primo momento che sorgeva la luce che s'uscì fuor dalle porte fino all'ultimo che ci si vedeva si fece tutto, ma non ci fu verso de spuntalla, fu preso per 3 volte de fila e per 3 volte fu riperso. Eppure, come davano il segnale, mentre dalle finestre e le ferrate veniva giù l'inferno, dal viale si rimontava sulle scalinate. S'entrava nel portone, per le scale, per le camere, fra le barricate de sedie e tavolini, per le sale, a mozziche, a spintori, a sciabolate, con qualunque arma, come se poteva, fra fiamme, fuoco, strilli, sangue, morte. Se cacciavano via, se rivinceva, ma non ci fu verso di spuntarla. Fu preso per 3 volte de fila e per 3 volte fu riperso. L'ultima, il tetto in cima già fumava, travi, soffitti, mura s'abbruciavano, per le camere ormai si camminava su rimorti che si carbonizzavano, e ogni razza, ogni bomba che schioppava nelle camere che si sfracellavano, mentre che si feriva e si ammazzava, travi, soffitti, giù, si sprofondavano. Eppure, sai, finché non fu distrutto, finché ci furono muri, scale, porte per ripoterci entrare, se provò tutto, ma non ci fu verso di spuntarla. Fu preso per 3 volte de fila e per 3 volte fu riperso. Che se può disse l'erano rubata, per quanto uno avesse l'intenzione che la difesa fosse seguitata, non c'era più da starsi a fa illusione, perché una volta persa la giornata del 3 giugno per Roma era questione de tempo, ma la sorte era segnata, perché senza contare la gente morta e il terribile che era succeduto era che de noi altri fuor de porta non c'era più che medici al vascello, il resto tutto quanto era perduto. Non ci restava in piedi altro che quello, ma ci rimase lì fino alla fine, finché il muro, i sassi, i mattoni, finché le pietre dei cornicioni non stavano giù drento alle cantine, e lì, fra sarti, mine, contromine, tutti i reggimenti e i cannoni, finché non volle lui, non furono buoni di farlo scegne giù dalle rovine, che dal principio che ci s'era messo, più loro li francesi ci provavano a cacciarlo, e più lui sempre lo stesso. Imperterrito, sempre, e sempre in cima le macerie se lo ritrovavano, ogni giorno, sempre lì, peggio di prima. E per quanto una forza strapotente lo strignesse così, che uno pensava che insomma via non fosse umanamente possibile de stacce, lui ci stava. E più che quello lì lo subissava de ferro e fuoco e gli ammazzava gente, più che gli andava sotto e l'intimava dell'assallo, e più lui, medici, niente. Lo lassò, solo all'ultimo momento. Ma perché Garibaldi, dalle mura, gli impose dell'assallo e torna a Drento. Allora lo lassò, soltanto allora. Se non medici, quello era figura che lì al vascello ci starebbe ancora. però qualunque prova di coraggio facessi. Lo capiva una creatura che qui se stava dentro nel granaggio tale che ormai la fine era sicura. Defatti, mentre in tutta la pianura li francesi ci avevano il vantaggio d'avecce sano e libero il passaggio sino al mare, e noi qui, drento le mura, stretti dalle tenaglie dell'assedio, ogni perdita de truppe e munizioni era perdita ormai senza rimedio. E più noi se trovavamo fra gli stenti, più a quelli gli arrivavano cannoni a centinara e truppe e bastimenti. Eppure noi, per quanto se vedeva, se sapeva e se fosse conosciuto che era inutile, che non se poteva vincere, che tutto quanto era perduto, pure ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, senza riposo mai, se resisteva. E insomma, già che s'era risoluto de non cede, per Dio, non se cedeva. Così, tutti i giorni a funzione, e come la giornata era finita, cominciava a sfilare la processione de quelli che, sortiti dalle porte la mattina nel meglio della vita, ci rientravano in braccio della morte. Cominciavano fra le sentinelle quelli a cavallo con le torce a vento, strillando: avanti, largo, fermi, attento! E appresso, a fila, tutte le barelle. E lì in mezzo alle madri e le sorelle, fra la folla che camminava a stento, le vedevi e sentivi ogni momento gli strilli che arrivavano alle stelle. E così fra gli spasimi e gli pianti delle donne, fra l'ordine di quelli che strillavano sempre: largo, avanti! Giù tutti, finché davano il segnale delle fermate avanti ai cancelli delle porte, davanti all'ospedale. E l'ospedale e tutti gli altri siti dove c'erano i locali addetti alle ambulanze ormai si erano empiti al punto che mancavano i letti. E ogni giorno giravano carretti e sentivi strillare: chi c'ha vestiti vecchi, camicie, fasce, fazzoletti? Dateli per i poveri feriti! Allora dalle case e dai palazzi vedevi venire giù dalle finestre cuscini, fasce, sfili, matarazzi. E lì con i carretti, con le botte, con i sacchi, le sporte, le canestre e via, fino al principio della notte. Le notte di quell'ultimi momenti, che erano quell'ultime nottate, fra i terrori degli accampamenti, fra le fiaccole delle barricate, e dappertutto, fra i monumenti, sopra i ponti, per le scalinate, fasci d'arme, cavalli, finimenti delle truppe che c'erano accampate, dappertutto soldati giù all'oscuro, sotto le file degli colonnati, buttati fra la paglia addosso al muro. Qualunque cosa viva era finita in quell'ultimi istanti disperati. Roma non dava più segno di vita. Dovunque t'accostavi era un terrore. Gira, gira, non si incontrava un cane. E passavano l'ore e l'ore sane d'un silenzio che te gelava il core, che quando hai levato le campane, che sentivi ogni tanto batte l'ore dell'orologio e quel solito rumore che fanno l'acqua e affonda le fontane. L'unica voce che uno risentiva erano l'urli delle sentinelle che ogni tanto si davano il chi viva! E come che quell'urlo era passato, che se stavano zitte pure quelle, allora poi non si sentiva un fiato. Noi però, sempre fissi in quel pensiere de resiste a qualunque condizione, dai a cercare i modi e le maniere per trovasse una via di salvazione. E oggi se scavavano trincere per vedere di salvare una posizione, domani se muravano macere per proteggere le bocche dei cannone. Intanto per le vigne giù fra l'orti tutti i fossi delle precipizi delle mura s'empivano de morti, che come uno se poteva sciogliere dell'assedio per via dell'armistizi, se sortiva e s'andavano a ricoglie. Beh, vedi, da quel tempo sino adesso, da tempo Dio lo sa se ne è passato, che tanti fatti me ne so scordato e tanti altri li so così, a un dipresso. Ma quella degli morti, te confesso che da quel giorno lì che c'è sono stato a ricoglierli, me li porto appresso come ci avessi tutto qui stampato. E come ne ridico una parola, quel tanfo delle carni infracicate me lo risento qui dentro la gola. E quando ci ripenso, tutti quanti quelli che ho visto lì in quelle giornate, mi pare di riavecceli davanti. Certi si ritrovavano abbottati, pallidi che parevano de gesso, che nell'arsalli te veniva appresso la carne con i vermini attaccati. Cert'altri invece, che erano restati al sole, sempre lì, gli era successo che li portavi via neri all'eccesso, quasi peggio che fossero abbruciati. E tutti che mettevano paura, senza occhi, senza più le effigie umane, con gli interiori fuori della montura, E Dio liberi come se toccavano li vermini, le mosche, le zampane a nuvoli, le vespe te cecaveno. E poi te credi tu che la nazione de dov'erano in mezzo a quell'orrore che te saresti vomitato il core lo capivi da qualche distinzione? Ma da niente, perché quando uno muore in guerra e tu gli levi il paragone della montura e l'antre guarnizione dell'abiti, sono tutti d'un colore. Defatti, quando quelli erano vivi, chi fossero con tutto quel lavoro dell'odio della guerra, lo capivi. Ma lì per terra l'unico divario per distinguere i nostri dali loro consisteva soltanto nel vestiario. Quando c'era, perché tante le volte non solo si trovavano magnati dalle bestie e ridotti in quella sorte, de modo che t'ho detto, ma spogliati. Basta, lì, dopo averli sotterrati, sia che tutto quel senso della morte ci avesse, se può dire, pacificati, invece di rientrare dentro le porte, si stava assieme e fino a che durava l'armistizio, qualunque divisione spariva e quasi fino se scherzava. Ma nel meglio che tutti erano amici, è che del primo colpo di cannone tutti ridiventavano nemici e si riprincipiava. Ma che vuoi riprincipiare di più? Quando me dai che t'accorgi che tu non ce la puoi, per quanto tu t'arrampichi, che fai? Quello che su per giù facevamo noi, che per quanto non si finisse mai de resiste, alla fine era che poi più stava e più crescevano i guai. Defatti, piano piano, a poco, contornati dovunque de rovine, chiusi dentro in un gran cerchio de fuoco, erimo già venuti a quel momento fatale del principio della fine, dell'ultima ora del bombardamento. Razzi e bombe fioccavano, ma pure, fra mezzo alle rovine, agli sfaceli dei palazzi, in mezzo alle paure di quell'ultimi strazi più crudeli, non si cedeva. E il Pincio e l'Antra Arture, la Trinità dei Monti, all'Araceli sempivano de donne e de creature che cantavano l'inni de Mameli. Li cantavano tutti! E intanto quello che li scriveva, consunto dal male, con una gamba tagliata, poverello, dal giorno che fu fatta la sortita del 3 giugno, languiva all'ospedale, in un fondo da letto, in fin de vita. E chissà quante volte da quel letto de morte, chiuso nell'infermeria, mentre sentiva in fondo alla corsia le bombe che schioppavano sul tetto, chissà quante mai volte, poveretto, quell'inni scritti nella frenesia della vita sarà stato costretto di risentirli in mezzo all'angonia. Chissà quante mai volte, a mano che cessavano il fuoco e all'aria quieta forse li risentiva da lontano, chissà che aveva pensato quel pensiero, quello che non soltanto era poeta, come si dice, ma poeta vero. Perché quello che tu ci avevi dentro, nel cuore tuo, senza saperlo esprime, lui ci aveva quel dono del talento di scriverlo stampato con le rime. In un modo che tu, fin dalle prime parole che capivi l'argomento, quell'inni sui te li sentivi imprime nell'anima, con tutto il sentimento. Tanto che come uscivano stampati, mi ricordo che manco se guardavano con l'occhi, che se l'erimo imparati. E il più bello di tutto quanto, poi, era questo, che quando se cantavano, ci pareva di averli scritti a noi. Per questo, quando una dimostrazione passa con le bandiere fra la gente, che a quell'inni rimane indifferente, io quasi me ne fode una ragione, perché io dico che tutta l'impressione di quell'inni, ma come la risente uno che non si porta con la mente a quei giorni di rivoluzione? Quando bastava una parola sola di quell'inni, bastava a malapena di risentine di mezza parola, perché fatiche, fame, avvilimento, qualunque affanno di qualunque pena, tutto sparisse come nebbia al vento. E come risentivi di fratelli d'Italia. Rivedevi tutti quanti con l'accetta, li sassi, li cortelli, corre alle mura e ributtassi avanti. Tutti li rivedevi. Fino a quelli chiusi nell'ospedale agonizzanti. Li rivedevi pallidi, tremanti, scegne da lette uscita li cancelli. Rivedevi li morti insanguinati che riaprivano l'occhio. Si rialzavano da per terra dove erano cascati e senza sentì più i patimenti delle ferite si ristrascinavano sulle mura e morivano contenti. Che volevi far più? Per quanto orribile fosse la morte senza che giovasse a nessuno, per quanto mai terribile, era l'unico ormai che ci restasse. Ma che volevi far più? Tutto il fattibile si era fatto. E oramai che se sperassi che il governo di Roma non parlasse de resa, era sperare nell'impossibile. Defatti all'assemblea, i deputati che insomma non potevano andare avanti per quanto loro fossero angustiati di discutere, a provare che la difesa fosse cessata, pure tutti quanti cominciavano già a parlare di resa. Ma siccome mancava la presenza dei Garibaldi, appena venne letta la proposta che Roma era costretta per forza a terminare la resistenza, pensando che si fosse a conoscenza di quello, qualche idea l'avrebbe detta, fu decretato subito d'urgenza di spedigli de corsa una staffetta che, come lo trovò che difendeva l'ultima barricata del Gianicolo, gli disse che il governo lo voleva. E lui, benché straziato dall'idea dell'assacco quelli posti lì in pericolo, volte il cavallo e corre all'assemblea. E arrivato davanti al Parlamento, che in quei giorni lì si ridunava a Campidoglio, appena che fu scento e che vestito come si trovava, con la spada che non gli entrava dentro nel fodero, che ancora gli gocciava del sangue sul mantello che portava, li segni ancora del combattimento, come comparve rosso del colore della battaglia, a vederlo coperto di polvere, di sangue, di sudore, fu un urlo solo e così forte, che io dico che l'intesero de certo quelli che si battevano alle porte. Poi, come a poco fu quietato tutto quel terribilio e fu costretto a dì franco si avesse immaginato dentro la mente sua qualche progetto e che si pure fosse esagerato, ma che insomma potesse avere l'effetto che almeno Roma avesse ritardato de qualcora, che lui l'avesse detto. Lui, come che il governo gliel'impose, mentre tutte le gente ridunate lì dentro non fiatavano, rispose: uno ce n'è, ma bisogna essere pronti. Passa a fiume, la sale barricata dall'altra parte e fa saltare i ponti. Era troppo. E poi, tutto calcolato, pure che ricorrevi a quell'eccesso, che avresti fatto? Avresti ritardato di qualcora, ma dopo era lo stesso. Ma quello invece, appena fu forzato di rispondere, sì, dopo d'aver messo in pratica quel mezzo disperato, cosa poteva poi sperarci appresso? C'è da sperare, rispose, che oramai se c'è da restare sotto le rovine, ci saresti, ma scegni a patti mai. E senza sta aspettare che fosse sciorta la seduta e approvassero la fine, corse a combattere ancora un'altra volta, fino all'ultimo. E quando che la resa fu decisa, straporta i soldati a San Giovanni e appena la schierati sul piazzale davanti della chiesa, Giovanotti gli fece: Roma è presa. Io non cedo, per cui voi ridunati, e se non volete essere disarmati, venite e seguitamo la difesa. Non ve sforzo, perciò venga chi vuole, ma chi vi esse ricordi che ho promesso fatiche, fame, sete, vento e sole. Non disse altro, e sortito dalla porta, lui con quell'altri che gli annorno appresso, qui a Roma la Repubblica era morta.